alta voce. Patrizia Zappa Mulas legge I padri lontani di Marina Jarr. Nona puntata. Mi erano sempre piaciuti i racconti storici. Sulle prime i personaggi mi erano apparsi avvolti in una fitta ragnatela di atti e ragioni che non ero ancora in grado di capire completamente. Nudi, con pochi connotati, senza vestiti e costumi, i secoli non mi avevano ancora invaso, ridotti sovente a un unico particolare che mi aveva colpita, o addirittura soltanto al sentimento che avevano risvegliato in me. Negli ultimi mesi in Lettonia avevo letto due libri. Uno era il racconto degli ultimi giorni e del supplizio di Maria Antonietta. L'altro erano le vicende di Arminio. Nel racconto su Maria Antonietta fui immediatamente presa dalla visione della testa sanguinante che il boia sollevò e presentò al popolo. Tutto il resto, ivi compreso il corpo mezzo in costume della sventurata regina, il popolo schiamazzante, persino il boia, perse colore in confronto all'orribile testa. In lei soltanto, se così si può dire, mi immedesimavo. Mentre leggevo, mi correva intorno al collo un lungo fremito di cicatrice. Del racconto ricordo molto chiaramente anche il tono fervoroso e fanatico. E siccome ero abituata a considerare tutte le esagerazioni come non sincere, sospettai che non mi venisse detto tutto. Ero educata alla ragionevolezza, seppur crudele, delle punizioni. Invece le vicende di Arminio e dei suoi mi travolsero. Lessi il libro tutto di seguito e, giunta alla fine, quando alzai lo sguardo, la foresta al di là dei campi si incendiò nel tramonto, bruciando Arminio e i suoi legati agli alberi. Insieme bruciava anche il libro con le sue vicende, di cui non ricordo nulla, poiché quello che me n'era rimasto era più forte e colorito delle stesse sventure di Arminio, ed era l'odio verso i Roma e le loro nefandezze. Partendo dalla Lettonia, lasciavo là per sempre Arminio e i suoi. Arminio nel suo nome tedesco, nella sua selva tedesca, con gli alberi, i fiori che a lungo pensai nei loro nomi tedeschi, e furono alberi e fiori diversi da quelli italiani. E non mi venne in mente di ricostruire chi fossero questi odiosi Roma. Non li collegai affatto con i romani dei miei brutti testi scolastici dell'Italietta fascista. Il contrasto era troppo forte e la selva di Teutoburgo troppo lontana. Solo molto più tardi, quando lessi in tedesco la storia romana del Mommsen, mi resi conto tutto a un tratto di essere passata, senza accorgermene, dall'altra parte. Però, studiando cause ed effetti e avvenimenti, dopo che quel mattino nella palestra i millenni si erano rovesciati su di me e i secoli avevano incominciato ad assediarmi come l'alta marea smangia a poco la spiaggia, mi saliva dentro una paura di fronte alla storia. Essa non dava sicurezza, tutt'altro. Non stava ferma in un passato dai muri invalicabili, ma riempiva a ondate il mondo di morti, e poi di vivi, e poi di morti ancora, ed era cieca come un seme in questo suo operare. Guardavo dalle finestre della classe la collina esposta a nord di Rorà, bianca di neve, rigata dai filari neri degli alberi. Poco più là, sulla stessa collina, si visitava ancora la casa di Genovelle, capo partigiano valdese del 600, quando il gelo se ne andava dalle montagne, i cattolici di Luserna, castellane e soldati, salivano a cercarlo per i sentieri che correvano in solchi ormai scuri di terra e di sassi, e lui, con i suoi, oppure anche da solo con l'aiuto di un ragazzino, sparava su di loro con la sua colubrina, da lui stesso perfezionata, per serbare la fede e per combattere il buon combattimento. Beato chi ha fame e sete di giustizia, perché sarà saziato. Intanto in classe si leggeva la Bibbia, dalla Genesi in prima media all'Apocalisse in quinta ginnasio. Le pagine frusciavano rapide quando l'insegnante ci diceva di saltare qualche capitolo e noi, fiutando passaggi scabrosi, ci precipitavamo a leggerli subito. Lot così si giaceva con le figlie e Salomone raffrontava i seni dell'amata a due colline gremite di pecore. Il paragone di forme selvatico mi ripugnava. Trovavo indecenti quei seni che pascolavano in mezzo alla sacra scrittura, altro che il timido prurito dei miei capezzoli in crescita sotto il grembiule nero. Del resto leggevo la Bibbia anche per conto mio. Leggevo e rileggevo laddove sta scritto che Dio che si avvicina non è il gran vento, non è il fuoco, ma è, per finire, una musica dolce e sommessa. Oppure di Mosè nel roveto ardente che brucia e non si consuma. E poi dove sta scritto, oh, mi danno pace, le due parole accostate, sta scritto, lo spirito soffia dove vuole. Tuttavia spesso la Bibbia mi inquieta, le sue storie non sono affatto ragionevoli né armoniose e le cause e gli effetti oscuri. Ma poiché leggevo la Bibbia come leggevo Victor Hugo, che Giosuè fermasse la luna e Gesù camminasse sulle acque mi appariva in immagini e non in riflessioni, che dietro a queste immagini si svolgesse su sentieri inconoscibili un'altra storia mi incatenava e più alla rilettura. Ma già allora questioni dottrinarie e teologiche mi impazientivano ed ero emozionata solo dal testo in cui si manifestasse in forma poetica e drammatica quell'unico punto che mi stava direttamente a cuore, quello che si riferiva cioè ai miei rapporti con Dio. Sentivo risuonare tutto il Nuovo Testamento dell'ultimo terribile grido di Gesù sulla croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sei Dio? Non aveva avuto pietà di lui, perché avrebbe dovuto averne di me? Era un Dio tremendo, non più nascosto a contar le stelle dietro le nuvole tratteggiate nel mio secentesco testo luterano di religione, ma era là, subito là, al di sopra del granero, del Bussy, del Roux, del Guinevere, e quante volte non era sceso nella nebbia per nascondere un antenato con il suo archibugio, appostati entrambi dietro una roccia o un muretto, in attesa d'un francese o d'un piemontese, d'un papista, insomma. Qualche volta non era sceso, ma sua fu la decisione. Non puoi fare contratti con lui, il dio dei barbetti, il dio degli antenati valdesi di mia madre. Non puoi offrirgli opere, poiché gira e rigira si troverà sempre, a ben guardare, un qualche tornaconto nelle opere, un qualche cosa da portare al mercato, o burro o seiras o vitello. Rifiuta le opere, ma devi ben operare, togliere i sassi dai campi, portare nella gerla il letame sui pascoli, aiutare la vedova e il vecchio e ascoltare la domenica i sermoni del pastore, non solo per imparare ma per censurare quel che il pastore ha detto di troppo o quel che avrebbe dovuto dire e non ha detto, e guai a lui se, cedendo alla stanchezza delle camminate su e giù per le mulattiere, ha ricopiato se stesso nel sermone e vi ha aggiunto di soppiatto la conclusione di una predica precedente. La comunità ha diritto ai suoi sermoni freschi e, in fin dei conti, il ministro non ara, non munge e non zappa. Il Dio tremendo degli antenati di mia madre è lo stesso che impose ad Abramo di sacrificare il figlio e che punisce la verga della sua ira che proprio lui ha scelto. E quando ci concede tempi di pace, il solito periodo di 30 anni, e se è più lungo vuol dire che in mezzo ci manda una pestilenza, dobbiamo tenere testa ai papisti ed estenuarci in gare di merito per dimostrare di essere migliori. A prima vista non parrebbe difficile, i cattolici infatti sono assai ignoranti. Non mi aveva forse chiesto una ragazza cattolica, non delle valli, se i valdesi fossero cristiani? Si era mostrata scettica persino sull'esistenza della Bibbia. Io i cattolici li ritenevo tutto al più fratelli che sbagliano. Il nonno chiamava i suoi allievi peggiori i filistei. Erano quasi tutti cattolici e il nonno doveva loro insegnare da capo il francese, il che faceva con una certa impazienza ma con spirito di giustizia. Infatti, oltre che le fleu, il flagello, era chiamato le juste, il giusto. I cattolici, state attenti, accalappiano anime con mezzi disonesti. I mezzi onesti, che si possono riassumere nel solito ben ragionare, sono inadoperabili con i cattolici. Certo, sarebbe pur bello trovare un cattolico in grado di essere ben ragionato, ma purtroppo la loro ignoranza è una muraglia impenetrabile da qualsiasi tentativo o tentazione di ragionamento. A noi, invece, il dio Barbetto ha dato questo impossibile compito, insieme a queste valli da coltivare. Egli procura di grandinare sui campi dei malvagi e fa prosperare le viti dei buoni, salvo a scoprirli poi un bel mattino colpevole di una qualche a lui solo nota trasgressione. Ma terribile com'è, gli devi parlare a tu per tu, e forse perciò temi meno il re, nostro principe naturale, al quale puoi ben ricordare che egli è arrivato qui dopo di noi che vi stiamo da tempo immemorabile. Il re è ben piantato nella terra, seppure terra pietrosa ed erta e cespugliosa delle valli. Va seguito e rispettato come si rispetta l'alternarsi delle stagioni per seminare e per raccogliere, e il ventre della donna gravida alla quale si tolgono i carichi troppo pesanti, non tutti, perché qualche peso ognuno di noi deve portare. Anche il diavolo, del resto, è naturale come il re. Carnoso e corposo il diavolo Barbetto, al quale, secondo Genevelle, si può sparare come a un papista qualsiasi. Occorre che tutti, ma specialmente i migliori tiratori, abbiano qualche palla di bronzo o di ghisa per castigare il diavolo se si presentasse. Come meravigliarsi se costui, indegno sostituto del diavolo luterano, se ne fosse andato per sempre da sotto il mio letto, scacciato dai profumi d'aglio e di rosmarino degli arrosti della nonna, che valeva almeno quanto un tiratore scelto. Mi avviavo a prendere la prima comunione, vestita del costume valdese e con un grembiule tessuto a mano venuto giù insieme con la cuffia dalla Val d'Angrogna, qui dicitor Engrogna, mi accompagnava il suono dell'organo ed ero commossa. Inghiottendo il pezzetto di pane e bevendo il vino dal piccolo bicchiere, promettevo genericamente a Dio di essere buona e di soffrire in silenzio, cosa che mi stava divenendo sempre più difficile. Anche perché a nessuno gliene importava nulla che io soffrissi in silenzio, e mi mancava quel pubblico che ogni adulto aveva diritto quando soffriva in silenzio. Non pensai a Gesù Cristo. Cercavo appunto di allontanare il pensiero della sua morte. Il terrore della morte mi perseguitava. Sognavo di essere sepolta viva sotto la vigna del nonno nel prato, e cercavo di consolarmi con la speranza della resurrezione. Nonostante la minuscola certezza acquisita quella mattina nella palestra che Dio non può aver privilegiato i cristiani, continuavo a considerarmi cristiana. Mia sorella, che si rifiutò di prendere un anno dopo di me la prima comunione, mi rimproverò poi la mia doppiezza e accondiscendenza. Ero infedele di natura, i miei dinieghi non erano abbastanza decisi, le mie accettazioni vacillanti. Zizi aveva frequentato il catechismo, che, dice lei, si teneva alle 7 del mattino prima della scuola. Lo aveva frequentato, afferma, per dimostrare che non era così pigra come si diceva. Il suo rifiuto finale non fu considerato scandaloso. Era più scandaloso essere pigri. Quanto a me, a persuadermi non era stata soltanto la mia doppiezza, che in alcuni casi si ramificava in molto più di due motivazioni. E il mio amore per le cerimonie dove fosse ben recitato il simbolo. Mi piaceva persino sfilare allo stadio in divisa di giovane italiana portando il gagliardetto. Ma il solito contrastato desiderio di essere uguale agli altri e di essere nel contempo migliore. Corteggiavo le istituzioni e non mi opponevo in linea di principio, ma mi occorreva tempo per accomodarmi in un posto, e senza volerlo ne sbordavo nei momenti meno opportuni. Quando al campo sportivo l'insegnante di ginnastica gridava dalla tribuna su tutte le scuole radunate in ordine quasi perfetto nelle loro strisce bianche e nere, eravamo in provincia ed era ammesso il quasi perfetto, chi è che alza la testa per guardarsi intorno? Gersoni, naturalmente. Gersoni ero io, purtroppo, e non mia sorella. Non ero io che rifiutavo le istituzioni, ma erano le istituzioni che rifiutavano me. Una volta, mi pare che fossimo già al liceo, facemmo una gita su per la Val d'Angrogna per arrivare ai 13 laghi. È uno dei passaggi secolari dalla Val Pellice alla Val San Martino ed è una lunga camminata. La valle parte stretta di colpo e la strada segue all'inizio il torrente Angrogna. A sinistra, oltre il torrente, il pendio è ripido e selvoso. A destra si sale attraversando piccole piattaforme con borgate. Il capoluogo, sprofondato nell'alta valle, è Pra del Torno. Come in altre valli valdesi altissime e anguste, il contrasto tra la parte solatia abitata e quella di fronte folta di boschi è molto forte. Eravamo partiti nel pomeriggio e, giunti al tramonto, poco oltre la Vaccera, domandammo ricovero per la notte a un montanaro tarchiato e castano che stava riconducendo le sue mucche alla stalla. Ci chiese da dove venivamo, il nostro nome, poi ci indicò il fienile. Mentre entravamo, mi guardò e mi disse una breve frase che non capii, nel suo dialetto dalle A larghissime, dalle E strettissime. Tradusse poi: siamo cugini. Il professor Coisson è mio cugino. Non soggiunse altro e ci fece entrare nella stalla. Quando eravamo arrivate alle valli, non viveva più nessun parente diretto del nonno in Angrogna. Era già morta Tante Catherine e sarebbe morta poco dopo Tante Madeleine, che stava in Francia e che il nonno adorava, diceva la nonna, che non era disposta a tollerare altre donne da adorare in famiglia. Mentre udivo nel sonno le mucche nella stalla sotto di noi sbuffare, urtarsi, orinare, e sentivo l'odore caldo delle bestie che mi richiamava quello del latte che talvolta bevevo appena munto, mi chiedevo come quel cugino, un Oden, avesse rintracciato la nostra parentela sotto il mio cognome straniero e perché me l'avesse comunicata fermandola semplicemente con quelle vocali estranee. Continuai a ripensarci anche l'indomani, mentre camminavamo sotto il sole cocente, dopo un'alba freddissima, su per il Chaplet, verso i 13 laghi, che apparvero ai miei occhi come pozzangherette. Quanto lontano il grande lago sul quale coglievo le ninfee. Qui tutto era racchiuso nella pietra e l'acqua, avaramente raccolta, per quanto fonda e limpidissima, aveva anch'essa più il colore della pietra, un grigio verde quasi nero la sera, che il colore del cielo. Dentro di me, oltre alla sorpresa, come potevo essere la cugina di quel montanaro tarchiato e castano di cui intendevo a malapena l'antichissimo dialetto, e oltre al disagio di non sapere in alcun modo replicare, rispondeva un'eco confusa a quel riconoscimento. Posavo gli scarponi chiodati sui sassi, sempre sassi, cocenti, e mi dicevo che indietro nei secoli tutti nella valle erano stati come quel cugino, sino a quelli che sulla piazza di Pra del Torno avevano ucciso nel 1332 il prete del paese, ritenuto la spia dell'inquisitore. E ciò, confusamente appunto, mi dava fierezza. Eppure mia madre diceva, parlando del nonno, quel che non potevo soffrire di lui era il suo sciovinismo valdese. Patrizia Zappa-Mulas ha letto I padri lontani di Marina Jar. A cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.